Roxanne, you don't have to put on the red light. The days are over. You don't have to say goodbye. Com'è che faceva Sting? Sting. Hai detto Sting. Ma non è vero. Sì. Ma perché adesso che ha compiuto 60 anni è diventato Sting. Stinge un po', capito? Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. Un saluto da Drago. Drago, oggi vorrei salutare con affetto un amico di Chiedo Asilo, un ospite inconsapevole del grande asilo che è l'Italia di oggi, e cioè il nostro bambino Vasco. Certo. Vasco, in un periodo turbolento. Ascoltando. In effetti l'anno scorso, quando avevamo fatto lo scoop del trapianto di fegato di Vasco Rossi, che ammetteva candidamente di avere il fegato di un bambino, anzi, sentiamolo un attimo. Ho fatto l'analisi del sangue qualche tempo fa e è venuto fuori che sono perfetto. Addirittura l'analisi del fegato, mi ha detto, del fegato di un bambino. Dicevo che l'anno scorso, proprio in questo periodo, Vasco ci sembrava come un mito inarrivabile, e quindi proprio per quello ci eravamo divertiti a indicarlo come un esempio incarnato dell'infantilismo italico. Per via, vabbè, dei suoi atteggiamenti da adolescente confuso, i testi un po' afasici delle sue canzoni e per un certo look sempre uguale da quando aveva 30 anni, 25. Però ahimè, dopo un anno, Drago, ci troviamo un Vasco malandato di salute. Sì. Che combina guai in internet o su internet come fosse Cossiga. Come se fosse Cossiga. Sì, Cossiga. Cossiga non li faceva su internet o in internet. Non c'era. Però ancora. Ti ricordi quando Cossiga era agli ultimi anni della sua presidenza, no? Sì. Siccome era libero, autorevole, ne diceva di tutti i colori. Sì, e ne toglieva i famosi sassolini dalle scarpe. E il picconatore. Stessa cosa Vasco. Stessa cosa. Ha parlato male di Ligabue. Sì. Ha scavalcato l'ufficio stampa e scrive le sue cose su Facebook. Sì, così. Senza filtri. Niente. Poi ha querelato un sito di satira e ne ha causato pure la chiusura. Lo sai questo? Il sito, come noto, è la scorrettissima Non Ciclopedia. E ha chiuso per paura di dover pagare risarcimenti milionari a un milionario, il che sarebbe una specie di tautologia finanziaria abbastanza discutibile, devo dire. Ma che lingua è? Cioè, ma non siamo mica sul canale 5 della filodiffusione. Cos'è tautologia finanziaria? Sì, che poi finanziaria. Tra l'altro, sai che non so nemmeno se tautologia in questo caso è giusto. Poi finanziaria, figurati. So, Dovresti dire che piove sul bagnato, no? Oppure che splende il sole sull'asciutto, non meglio, so. Meglio, meglio. Però nel caso di Vasco siamo alla disfatta mediatica ormai, perché questa vicenda di Non Ciclopedia ha scatenato... Il popolo di Internet! Bello, di internet, di quel, internet. È scritto di internet, capito? Quindi sì. di internet. Tutti arrabbiati con Vasco perché non ha saputo ridere della cattivissima biografia che Non Ciclopedia gli aveva dedicato, perché c'ha male al polmone, c'ha le ce l'hanno con lui perché ha usato i suoi ghedini personali per far paura a un sito amatoriale visitato più che altro da quindicenni brufolosi. Ma Vasco sull'argomento quindicenni brufolosi è sensibile, Tito, tu non sai, Tito, che non eri ancora nato, ma lì c'era la storia che la quindicenne Alba Chiara si chiude in una stanza. La mela. Prima mangia la mela. Ma no, fa i pensieri strani con i libri di scuola. Alla fine della canzone. Ma i pensieri strani fa con i libri di scuola, non ho mai capito. Di chimica, di anatomia, non lo so. Comunque, non fare queste cose, perché poi arrivano i ghedini di Vasco e ci vengono a far chiudere tutto. Ma che ghedini? Guarda che l'avvocato di Vasco è tipo Benicio del Toro in Paura dell'Iroh, in Fear and Loathing in Las Vegas. Avevamo due buste di erba, 75 palline di mescalina, 5 fogli di acido superpotente, una saliera mezza piena di cocaina, un'intera galassia multicolore di eccitanti, calmanti, scoppianti e esilaranti, e anche un litro di tequila, un litro di rum, una cassa di birra, mezzo litro di etere puro e due dozzine di fialette di popper. Non che per il viaggio ci servisse tutta quella roba, ma quando ti ritrovi invischiato in una seria raccolta di droghe, la tendenza è di spingerla più in là che puoi. Ah, bei tempi, quando ci si drogava così. Sì. Quando, cioè? Tipo ieri sera. Infatti. Chiedo e ora, bambini, ricreazione. Audio diario del bambino Alberto. Ieri è stata una giornata fantastica, perché mio papà mi ha portato a vedere i rapper. Quindi siamo andati a Quarto Giaro, perché lo sanno tutti, è lì che nascono i rapper, quelli nostrani, no? I rapper sono quelli che fanno il freestyling, quello che faccio anch'io. Solo che lì a Quarto Giaro, io non ho visto i rapper che facevano freestyling. Ho visto dei ragazzi che mio padre mi ha detto, guarda, quelli lì sono i rapper. Ma era un gruppo di ragazzi seduto sulla panchina, no? Tutti vestiti con ste maglione larghe, i pantaloni giù, con tutto di dietro di fuori. Ma papà, gli ho detto, ma se questi non fanno il freestyling, tu come fai a sapere che sono dei rapper? Mio padre ha detto, ma non li vedi che vestiti che hanno? E forse c'aveva anche ragione, solo che l'abito non fa il monco, come si dice, no? Quindi io non ci credevo. Allora gli ho detto a mio padre, senti, andiamo un po' più vicino, che io voglio vedere davvero se sono dei rapper, no? Perché io avevo voglia di vedere sti rapper per la prima volta. Che mio padre era un po' preoccupato, un po' titubante. Ha detto, vabbè, andiamo lì, però non troppo vicino, Ma perché, scusa, io voglio essere come loro tra qualche anno, quindi voglio osservarli da vicino, no? E lui si vedeva che non era contento, E gli ho detto, guarda che sono tutti comunisti rapper, per cercare di stimolarlo. Non sei contento che io voglio diventare un rapper? E lui mi fa, vabbè, vedremo, vedremo. Ha sorvolato, Allora ci siamo avvicinati. Io vedevo che questi qui si passavano un tubo, no? Tubo di plastica. E usciva del fumo, no? Dalla bocca di questi qui. E dove, ma papà? Perché lui sa tutto. Cosa stanno facendo? E mio padre aveva gli occhi pieni di lacrime. Cioè, si vedeva che aveva una nostalgia di qualcosa del passato, no? E mi fa, no, niente, niente. Come niente, niente? Cioè, stanno facendo qualcosa, no? E spiegami cosa stanno facendo, no? E proprio in quel momento, uno di quei ragazzi lì ha lasciato giù il tubo, ha sputato fuori una nuvola di fumo bianco, denso. Una roba strana, quasi fantascientifica. Si è avvicinato e fa, senti un po', non a me, mio padre, ma tu chi sei? Cioè, sei uno sbirro? Sei un pervertito? Sei uno che cerca morte? E mio padre stava per dire qualcosa, e questo qui gli ha tirato un calcio nelle palle, e mio padre è strapazzato per terra. E questo qui si è andato, E c'era ancora il fumo, e buttava fuori ancora il fumo, Una specie di drago. Poi, dopo un quarto d'ora, mio padre si è rialzato, piano piano. Siamo tornati l'MLM alla macchina. L'MLM perché mio padre era un po' stonato, no? Poi, alla fine, siamo arrivati alla macchina, e c'era il finestrino rotto. Avevano rubato il navigatore. Allora mio padre ha cominciato a bestemmiare in tutti i modi, tutte le lingue, i dialetti che conosceva. E 10 minuti ci ha messo, E tutto rosso e imbufalito. E poi ha cominciato a lamentarsi, indignato, no? Con l'ingiustizia sociale. Perché era l'ingiustizia sociale che faceva diventare ladri, picchiatori e drogati. Che poi hanno capito la roba dei drogati. Dei bravi ragazzi in fondo, no? Di quartieri poveri, ma buoni di spirito. All'inizio, poi dopo. E allora mio padre mi fa, uè, se provi ancora una volta a dirmi che vuoi diventare un rapper, ti mando in collegio in Svizzera, hai capito? La Svizzera, un collegio svizzero, mio padre che è un comunista, andato in collegio svizzero dove erano quelli di buona famiglia, no? A me andava anche bene, no? Collegio svizzero, genitori a casa, in Italia, se per loro non c'è problema, per me neanche, perché lì il vitto, si dice, fra i bambini ricchi, è che, uè, si mangia bene, in Svizzera. Le persone sarie. Serie, va bene, ma sarie così, se mica di Verona, dai. Allora, continuano ad arrivare le liste delle 5 persone serie, però qui effettivamente, guardando le liste che ci mandate, insomma, viene in mente che se invitaste a cena le persone che voi considerate serie, sarebbero delle cene tristissime. Senti Sergio Varbella. Prendiamolo. Che indica De Bortoli, Casini, Bindi, intesa come Rosi, perché Umberto ormai è morto. Poi Comencini. No, Comencini è anche inteso come chi? Perché uno Comencini, Comencini ce ne sono 2 o 3. È morto. E poi, vabbè, a parte tutti morti con Galli della Loggia. Però la cosa tremenda sarebbe che oltre a questi 5 ci fosse anche Sergio Varbella.